1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, siamo appunto pronti a leggere i giornali ricchi di notizie oggi, tanti begli spunti che vi voglio riproporre e allora dai, andiamo subito a sfogliarli questi quotidiani. In questo martedì 9 febbraio la maggior parte dei quotidiani apre sulla giornata nera delle borse. Lunedì nero per le borse, Milano meno il 4,7%, lo spread a 143, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera spread in tensione, borse giù. Repubblica, borse, la grande paura, l'incubo recessione affossa l'Europa e Wall Street. Così il Messaggero, tonfo in borsa, risale lo spread. La Stampa invece, l'Europa studia un nuovo trattato, incontro a Roma tra i 6 stati fondatori, bufera sulle borse, Piazza Affari giù del 4,7%. Come vedete la maggior parte dei titoli, anche borse e spread da paura, è l'apertura del giorno. Il Giornale invece, mutui non pagati, arriva lo scippo della casa. Con le nuove norme europee le banche potranno rifarsi sui debitori senza passare dal tribunale. L'apertura invece del Fatto Quotidiano, effetto sala sinistra, liste rosse contro il Partito della Nazione. Libero invece, Napolitano, reo confesso, e l'intervista di ieri a Repubblica, l'ex presidente ammette il complotto anti-Berlusconi, ma mette in difficoltà Renzi sostenendo che la Germania non si critica. Questa è l'apertura di Libero. Mentre l'Unità attacca il Movimento 5 Stelle, la voce del padrone, Casaleggio vara il codice per gli eletti 5 Stelle, o fate i burattini o multe da 150.000 euro. Avvenire, unioni civili e adozioni, ora è braccio di ferro. Anche per il Manifesto l'apertura è sulla vittoria di Sala alle primarie di Milano. Salasso, la vittoria di Sala manda in soffitta il miracolo arancione della giunta Pisapia. Questa è l'apertura del Manifesto. Voglio però buttarmi subito a capofitto nell'intervista all'onorevole Michele Anzaldi in Commissione Vigilanza Rai del PD. Intervista rilasciata al Corriere della Sera. Perché? Perché Michele Anzaldi è uno che, come si dice nel gergo dei social network, quando parla la tocca piano. Sentite cosa dice nell'intervista di Fabrizio Roncone. L'ultima volta parlò di Ballarò e Giannini, ne parla anche in questa intervista, poi sposta sempre il tiro da qualche altra parte. Ora l'onorevole Anzaldi ce l'ha coi vertici della RAI, il presidente, la presidente Monica Maggioni e l'amministratore delegato Campo Dall'Orto, scelti peraltro da loro, dall'attuale, sotto l'attuale governo. Sui nuovi vertici RAI ci siamo sbagliati, arroganti, son peggio dei predecessori. Così il Dem Anzaldi. Da quando ci sono loro, la RAI è peggiorata tantissimo, sia sul piano della comunicazione, sia su quello della trasparenza. E poi, dopo 6 mesi, dobbiamo ammetterlo, ci siamo sbagliati su Campo Dall'Orto e Monica Maggioni. Ma scusi, lei è sempre ruvido sulle vicende RAI, ma questo attacco è violento e inatteso. Ma inatteso, scusi, perché? Chiede Anzaldi. Ogni giorno l'azienda è sotto accusa per qualcosa e loro che fanno? Non spiegano, non commentano, niente, zitti, muti. Non bisogna disturbare il manovratore. La verità è che quei due si sono rivelati peggio dei predecessori. Ma lo sanno il direttore generale Dall'Orto, Campo Dall'Orto, e la presidente Maggioni come sono arrivati lì? Ce li abbiamo messi noi della vigilanza, con una serie di votazioni a catena complicatissime. E ora che fanno? Non vedono, non sentono, non parlano. Ma guardi, sulla vicenda del Capodanno è stata licenziata una persona. La Maggioni ha annusato la presenza di fotografi ed è venuta a San Macuto, dove risiede appunto la vigilanza RAI, a farsi il suo spottone personale. L'unico a pagare è stato quel povero disgraziato, mentre Giancarlo Leone, il direttore di Rai 1, è ancora lì al suo posto ed è lui, le ricordo, che a caldo cercò di far sembrare una robetta divertente quel penoso inganno grazie al quale milioni di italiani brindarono in anticipo al 2016. Poi torna alla questione, poi critica a tutti, mandano in onda la Leosini, una che io dopo quello che ha fatto non capisco come riesca a prendere sonno la notte, che intervista quello che ha sfregiato Lucia Annibali, un matto condannato a 20 anni di reclusione. E loro due, Dall'Orto e Maggioni, si sono giustificati? Hanno chiesto scusa? Zero. Come sempre muti nel loro silenzio altezzoso e arrogante. E poi ancora Massimo Giannini, guardi, né io né il PD vogliamo licenziare Giannini, anche perché non possiamo. Poi il problema non si pone più. E perché? Perché Giannini è stato già licenziato virtualmente dagli italiani, fa ascolti imbarazzanti. Ricordo che il suo editoriale di martedì scorso è andato in onda tra le 21.05 e le 21.10 e la RAI è crollata all'ultimo posto tra le reti generaliste, RAI 3. Ma siccome Giannini lavora in un'azienda dove ormai tutto è possibile, invece di starsene buono e mortificato, l'altra sera è andato pure a parlare male di chi lo paga e stendiamo un velo pietoso sulla cifra del suo stipendio a Fuori Onda, sulla 7. Insomma, c'è un Anzaldi che, come vedete, spara zero su tutto. Bianca Berlinguer fa un ottimo TG, ma proprio no, sul TG3 continua a fare sfacciatamente una sorta di panino. E poi ancora Sanremo, c'è Garco, ecco Garco, che è l'attore di punta delle fiction Mediaset e ce n'è pronta una, con lui protagonista, che partirà subito dopo il festival. Allora chiedo, è normale che la RAI lanci i divi di Mediaset? E Dall'Orto e Maggioni, che ne pensano? Al che l'ultima domanda è abbastanza conseguenziale. Senta, ma lei quanto parla? Parla a titolo personale oppure no? Quando dico qualcosa, di solito il PD mi viene dietro. E ricorderà che quando la Berlinguer intervistò Renzi dopo il nostro ultimo colloquio, lui certo non mi smentì. Insomma, fa capire, parlo a nome di Renzi. Così il deputato Michele Anzaldi del PD parla al Corriere della Sera sparando un po' su tutti in Rai. Vi voglio invece raccontare questa storia saltando su Repubblica. Può sembrare a voi una storia magari secondaria, ma secondo me è una storia importante, perché è anche da queste storie che si vede il livello culturale di un paese. Tommaso Montanari, che è, non è un, solo un collaboratore di Repubblica, è uno storico dell'arte molto apprezzato, è un professore docente universitario. Ebbene, il professor Tommaso Montanari racconta a pagina 22 di Repubblica questa polemica che riguarda una statua del Bernini, il Salvator Mundi. La statua del Bernini vola ad Agrigento per la sagra del mandorlo in fiore. Si chiede Montanari, quando vedremo la vocazione di Matteo di Caravaggio esposta alla sagra del tartufo di San Miniato e la pietà di Palestrina di Michelangelo spedita a quella della Sardella a Trieste? Non deve mancare molto, perché tra 10 giorni un Bernini monumentale sarà prestato alla sagra del mandorlo in fiore di Agrigento. Poi Montanari riepiloga come venne creata questa statua. Una scultura di rilievo e di straordinaria fragilità, un marmo di 103 centimetri pieno di delicatissime creste e sottili corpi aggettanti come le dita, dovrebbe muoversi il meno possibile, solo in casi di eccezionale spessore culturale. Com'è possibile che stia per succedere una simile enormità? Si chiede Montanari. È possibile perché moltissime tra le nostre più importanti chiese, tra le quali anche San Sebastiano, dove c'è questa statua, non appartengono al Ministero dei Beni Culturali, ma al fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno. E perché mai un serio e severo funzionario dello Stato dovrebbe prestare un delicatissimo marmo berniniano a una sagra paesana? Facile! Dov'è la sagra? Ad Agrigento. E qual è la città del capo del prefetto, cioè del Ministero dell'Interno, del Ministro dell'Interno Angelino Alfano? Ovvio, Agrigento. E non è una deduzione. Durante una sua visita in patria del giugno scorso, Alfano annunciò: come responsabile del fondo edifici di culto ho lavorato insieme al prefetto per realizzare un'importante esposizione di una o più opere proveniente dalle chiese che sono sotto la governance del Ministero dell'Interno. probabilmente si realizzerà a luglio e dovrebbe arrivare qui un Bernini. Quindi Alfano, scrive Montanari, lo aveva annunciato e lancia questo allarme: non spostate il Salvator Mundi da Roma, vista la fragilità. Questo su Repubblica, che dire invece? Mi ha molto colpito questa storia che proviene dall'Olanda, lo scrive il Corriere della Sera a pagina 23, è una storia che riguarda la scuola pubblica olandese e la dislessia. Perché c'è un dilemma etico che sta interessando molti in Olanda. L'Olanda infatti ha deciso di vietare gli aiuti nei test scolastici a chi ha il disturbo della dislessia. In Olanda il governo ha deciso e comunicato ufficialmente che gli esami sono uguali per tutti, scrive Luigi Offeddu. E dunque gli studenti dislessici non potranno più usare i correttori automatici che li aiutano nelle prove scolastiche. Se qualcuno di loro insisterà nel farlo, la scuola dovrà informare l'ispettorato competente e il colpevole si vedrà dedurre dei punti nel giudizio finale. Ovviamente la maggioranza dei partiti ha protestato in Parlamento dicendo è un'iniquità, le associazioni che raccolgono le famiglie dei ragazzi dislessici pure, ma il Ministero dell'Educazione ha deciso a non mollare. Un'ingiustizia sarebbe, al contrario, favorire alcuni ragazzi a scapito di altri. E comunque i punti deducibili dal giudizio sono limitati. Eppure il Corriere ricorda che ci sono 23 milioni di persone in Europa che soffrono di disturbi di tipo dislessico. In Italia sono 1,5 milioni o forse 2 milioni. Disturbi che hanno un'origine neurobiologica e che però, scrive il Corriere, possono causare ovviamente differenze, difficoltà di apprendimento nel leggere, nello scrivere, nel calcolo dei numeri, nel coordinare i movimenti. Il dato di fatto è che l'Olanda decide così. Ma saltiamo all'articolo che mi fa più zare della giornata. Questo non è da mani sul volante, non è da mani sul microfono, non è da mani sulla tazzina del caffè, sarebbe da mani sulla cloche dell'aereo. Perché Il Giorno racconta con Emanuele Bonini che l'austerità europea va a farsi friggere quando si tratta dei viaggi del presidente Juncker. Juncker è immune all'austerità. Il jet per i viaggi, jet privato per i viaggi da Bruxelles a Strasburgo, con affitti che costano 3 milioni di euro l'anno, la Commissione europea ha jet privati a disposizione per portare il presidente Jean-Claude Juncker e altri commissari da Bruxelles a Strasburgo. L'Unione europea ha una flotta di 6 aerei utilizzabili come taxi per fare la spola tra due città che distano 350 chilometri. Costo dell'affitto? 3 milioni di euro l'anno, anzi 12 milioni e 6 in 4 anni, quindi più di 3 milioni di euro l'anno. Scusi, c'è mica un taxi per andare? Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Milan, il giornalista che fa impazzire mia mamma! Caro figliuolo, va bene così. Allora, mandateci però le vostre sigle al 349-238-6666, mi piacciono quelle in dialetto, lo sapete, mandatecele via WhatsApp in audio con le inflessioni, poi spiegateci anche il dialetto di che regione è, che non siamo, cioè Peter Bescapelli conosce più o meno tutti, ma insomma non tuttissimi, ecco. Allora, la giornata delle borse che hanno chiuso in picchiata, Milano ha perso il 4,7%, e l'apertura per molti quotidiani, ovviamente sul Sole 24 Ore troverete moltissime analisi sia di come è andata la giornata, vi sottopongo l'articolo di Andrea Franceschi a pagina 2, racconta di fuga dal rischio, questa è l'espressione che fotografa meglio la giornata di ieri sui mercati finanziari, ennesima seduta all'insegna della volatilità in cui gli investitori hanno venduto pesantemente praticamente tutte le asset class ad eccezione dei cosiddetti beni rifugio come l'oro, che ha superato invece quota $1,200 per oncia, i massimi da 8 mesi, per poi tornare verso i 1,190. Oppure sul mercato dei titoli di Stato i bund dei treasury americani. Il tasso del decennale tedesco ha toccato nuovi minimi d'aprile, mentre quello dell'analogo titolo USA viaggia sui livelli di 12 mesi fa. Sul mercato valutario poi lo yen giapponese, moneta molto gettonata nelle fasi turbolente, è risalito ai massimi da un anno. Insomma, in questo contesto di estrema incertezza e volatilità, le borse hanno registrato l'ennesima seduta nera. E poi invece a pagina 3 Vito Lops racconta come non basti la BCE, l'intervento della Banca Centrale Europea, lo spread risale a 143. Ricordate che abbiamo ballato per tanto tempo, tutti i giorni si guardava lo spread quando ci svegliavamo, quando c'era anche prima Berlusconi, poi Monti, no? Quando si parlava di rischio fallimento per l'Italia. E beh, ora si torna a guardare lo spread, anche se Renzi nel suo storytelling raccontato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera a pagina 6 si sente molto tranquillo, la formula è quella solita, Renzi parla ai suoi e tutto ciò trapela magicamente sul Corriere della Sera nella penna di Maria Teresa Meli. E allora Renzi dice ai suoi: ma avete visto a quanto è lo spread? Quando sono arrivato a Palazzo Chigi era 200, poi è sceso a 90 grazie all'ottimo operato di Draghi, ora è risalito. Certo, sarebbe meglio averlo ancora più basso, ma non mi pare proprio che sia un problema. Insomma, Renzi non è per nulla preoccupato, così dice. L'Italia è molto più forte di quello che pensano e sperano certi gufi. Non siamo noi i malati d'Europa, è il ritornello del Presidente del Consiglio. È partito, anzi, quello che Renzi definisce il contropiede. Sapete che è un grande appassionato anche di calcio e quindi usa delle espressioni calcistiche. Il contropiede nei confronti dell'Europa. Si fa notare infatti che ieri c'è stato un convegno a Roma dei capogruppo socialisti dei paesi europei, chiuso dall'intervento del ministro Mariana Boschi, in cui si è chiesta maggiore flessibilità sui conti, dicendo l'Italia ha ragione. Beh, oddio, non saremo i peggiori d'Europa. Saremo pronti a fare il contropiede all'Europa, contropiede sacchiano. Suggerisco questa immagine, la ripartenza sacchiana. Per chi ha seguito il mitico Milan di Arrigo Sacchi, ecco, questa è l'immagine che potrebbe usare, la fornisco a costo zero come consulenza a Renzi. Una bella ripartenza sacchiana con Gullit, Van Basten e Rijkaard, nei confronti dell'Europa, ovviamente. Ecco, dicevo, saremo pronti al contropiede, non saremo gli ultimi, ma forse l'articolo che sta a fianco della cronaca di Maria Teresa Meli, e cioè a pagina 9 del Corriere della Sera, firma Enrico Marro, non è molto favorevole alla linea ottimistica renziana. Sapete qual è il paese che negli ultimi 3 anni ha avuto la più alta crescita del prodotto interno lordo di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea? È l'Irlanda. Sapete il paese che è andato peggio? L'Italia. Questo secondo il Forecast Winter, il rapporto previsionale pubblicato la scorsa settimana dalla Commissione Europea. Per la verità l'Italia non è proprio in fondo alla classifica. Facciamo meglio solo rispetto a Grecia e Finlandia. Ma Italia, Germania e Spagna, ecco i conti su deficit e crescita. Insomma, le previsioni d'inverno della Commissione Europea dicono che l'Italia sta in fondo alla classifica per quel che riguarda PIL degli ultimi 3 anni come crescita. E vabbè. Allora, la politica c'è Sala che ha vinto e ci si chiede se ora ci sarà l'unità degli sconfitti che convergeranno le proprie forze elettorali su Sala stesso. Ora devo conquistare consensi a sinistra, scrive Repubblica con Oriana Liso, che altro che partito della nazione, i voti da trovare sono quelli dei compagni di Sel e dei pisapiani ortodossi. Questa è la battuta nata ieri sera nelle stanze del comitato del candidato sindaco di sinistra Beppe Sala. Se Sala guarda questo, il centrodestra è veramente disorientato. Si attende per Milano che Stefano Parisi sciolga la riserva, ma racconta Libero con Matteo Pandini e Paolo Emilio Russo che c'è stata una cena abbastanza tesa anche tra Berlusconi, Salvini e la Meloni per decidere i nomi. Il Cavaliere propone due nomi, Salvini e Meloni non ci stanno, a Milano slitta l'annuncio della candidatura di Parisi, manca infatti il suo via libera, addirittura a un certo punto Berlusconi, racconta Libero, ha detto: che ne direste se candidassimo Corrado Passera, che ha già cominciato la campagna elettorale, è il nostro candidato. Apriti cielo, sia Salvini che la Meloni ha ricordato di aver già detto di no al banchiere. E allora a un certo punto spuntano altre idee, sì, ma vengono subito accantonate. La Meloni lancia per Roma Fabio Rampelli, candidiamo lui, oppure un nome che proviene dalla società civile. Qui appare un nome di una donna, identità che però sulla quale c'è massimo riserbo. Libero azzarda due nomi, forse il magistrato Simonetta Matone o forse Augusta Iannini, pure lei magistrata, attualmente al garante della privacy, e non si scrive, ma comunque moglie di Bruno Vespa. Berlusconi allora rilancia con l'ex generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli. Sul Messaggero spunta addirittura l'ipotesi Luca Barbareschi. Cioè, voi capite, per Roma, per il centrodestra, voi capite che insomma, si sta brancolando un po' nel buio. Però il nome verrà fuori. Rispunta in tutto questo anche Ignazio Marino. Fa un'intervista al Fatto Quotidiano, intervistato da Giampiero Calapà: a Roma la mia lista rossa contro Renzi e Alfano. Sta preparando la lista di marziani, non è una battuta. Mi ha fatto sorridere Giachetti, che ha detto di aver seguito distrattamente il mio allontanamento dal Campidoglio. Ma come, vuoi fare il sindaco di Roma e segui una vicenda del genere distrattamente? Anche Morassut mi ha fatto sorridere, mi ha invitato alle primarie come se nulla fosse. Ma sì, facciamo finta di nulla, dice Ignazio Marino, che poi si permette anche una battuta su Milano. Dice: non entro nella vicenda milanese, noto soltanto che si rischia un confronto tra due ex city manager di giunte di centrodestra, un epilogo molto renziano. Così Ignazio Marino, che si toglie l'ultimo sasso nei confronti di Renzi, dice: i valori del PD restano, è il partito che ho contribuito a fondarlo, Renzi d'altronde non ha comprato il PD, ne è solo temporaneamente il segretario. Così Ignazio Marino sul Fatto Quotidiano. Tra poco ci concentreremo anche sul Movimento 5 Stelle, tante notizie, ma caro Mauro Meazza, come vedi, ballano posti e poltrone, pronti per candidarsi, eh? Mauro, niente, candidatura è svenuto. Che dobbiamo fare? È un disastro in questo momento. Vado al traffico? Andiamo al traffico? Andiamo al traffico. Alessandro Milan, le pambalengune, come le schiere le notizie e le snung. Ciao a tutti! Mauro Meazza, che dialetto era questo? Adesso ci aiuti tu. Penso fosse della parte nord-occidentale dell'Italia. Va bene. Buongiorno. Traffico! Buongiorno. No, scusate, no, le Meazza più due minuti. Io, ma sono andato. Siccome mi fai delle domande imbarazzanti, allora ho preferito tacere. Ah, ecco. Mi sembrava che questa cosa andasse un po' passata sotto silenzio, insomma. Comunque, no, se vuoi lo diciamo, traffico, ecco. Così ci siamo sgravati di questo. Vorrei anche tranquillizzare tutti quelli che reggono l'orologio, il loro sì, siamo in ritardo, ma siamo non per colpa ritardo, vostra. No, siamo noi in ritardo. Oh, volevo dirti, so che ti stai appassionando allo spread, sì. Ho sentito che ti stai riappassionando allo spread. Mi chiedevano se stavi riguardando i tre gol presi dall'Inter domenica, un ascoltatore. No, vabbè, no, in realtà stavo guardando la pagina del Sole 24 Ore, dove Vittorio D'Arold ci informa che ritorna lo spettro di Grexit. Sì. Hai presente? Ecco, le cose non vanno benino, lì c'è una serie di, come dire, aiuti da finanziare, una riforma delle pensioni da fare, ma non c'è grande pace sociale, anzi è stato uno sciopero molto imponente, e ci sono anche da trovare 3 miliardi e mezzo di euro, così come tranche. Quindi sappilo, sapevatelo. Comunque tutto il dettaglio di questo ulteriore motivo di tensione su Sole 24 Ore di oggi, dove tra l'altro, tra le altre cose, ti segnalo nelle pagine di finanza che tu leggi avidamente, sì, avidamente è un avverbio adatto alle questioni appunto finanziarie, avidamente troverai che ci sono tutte le, i criteri sono stati stabiliti per il decreto attuativo di salvataggio delle banche, decreto legge, sarà un decreto legge che dovrebbe essere varato domani. Vi spiega tutto Giovanni Negri nelle pagine di finanza. Invece norme e tributi, oggi è martedì, giusto? Noi siamo in ritardo, ma oggi è comunque ancora martedì. Perfetto, e allora abbiamo, le pagine, la pagina di condominio, come dove sempre potrai apprendere tra l'altro che anche se non c'è la tabella millesimale, tu le spese le devi pagare lo stesso, caro Alessandro. È inutile che ti attacchi al formalismo, paga le spese di condominio, santa pazienza. Oh, ti voglio anche dire che c'è la possibilità di rinviare, di fermare le ganasce fiscali se tu chiedi la rateizzazione a Equitalia, ma questo ti viene illustrato come si deve sulle pagine norme e tributi insieme a tutta una serie di altre vicende. Ti voglio dire, c'è un problemuccio di fiscalità e bilancio, perché sono cambiate le regole dal 2016, però bisogna capire come queste regole impatteranno sul fisco. So che tu così farai orecchie da mercante. Io lo sento che stai facendo orecchie da mercante, e pur tuttavia ti voglio segnalare che la questione non è da sottovalutare. E tutto ciò premesso, però cosa lancio adesso? Niente, ci lanci Sanremo. Tutto ciò premesso, abbiamo già ascoltato il traffico. È fantastico. Mauro, buona giornata. Buona giornata, a domani ovviamente. Continuando invece la lettura dei giornali, dicevo, il Movimento 5 Stelle, grandi polemiche per questo documento con l'obbligo di sottoscrivere ai candidati di Roma un decalogo che prevede anche una penale di 150.000 euro se si nuoce al movimento. E oggi non c'è giornale che non contenga una posizione di esponenti importanti dei 5 Stelle. Roberta Lombardi sul Fatto Quotidiano dice: è una penale costruita in modo differente sul piano giuridico rispetto alla questione del vincolo di mandato che è tutelato, cioè che è escluso dalla Costituzione. Questo è un risarcimento per il danno d'immagine derivante dal tradimento del programma. Ma quindi eleggerete una testa di paglia? No, ma siamo contro l'uomo forte al comando, contro il programma e conta la squadra. Dunque il sindaco risponderà ai garanti, così Carla Ruocco sulla Stampa, così Di Maio sul Corriere dice: assolutamente necessario un documento del genere, vista la situazione romana. E comunque rientra tutto nella categoria degli atti pattizi, cioè un patto tra privati. È un deterrente che c'è anche per i deputati europei, hanno firmato per 200.000 euro di penale e non è mai stata esercitata. Nel nostro regolamento interno già esiste. Insomma, il Movimento 5 Stelle tutti difendono, non fanno un passo indietro su questa vicenda, anzi la difendono. Ma sul Movimento 5 Stelle c'è una notizia più importante, è su Repubblica, c'è la solo Repubblica. Antonio Ferrara racconta il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo. Ve lo ricordate? Quella che si è dimessa dopo tutte le polemiche. Ebbene, forse abbiamo scherzato. Quasi certamente Rosa Capuozzo oggi ritirerà le dimissioni. Sorpresa Quarto, il sindaco resta. Rosa Capuozzo espulsa dal movimento dimissionaria a fare retromarcia per governare voti anche dal centrodestra. E dunque Rosa Capuozzo oggi potrebbe fare un dietrofront abbastanza clamoroso. Ovviamente, signori, c'è anche tutto sulle unioni civili. Le unioni civili, soprattutto con la polemica di Sanremo, no, vi prego, no. La polemica di Sanremo, no. La polemica di Elton John a Sanremo, no, vi prego. Eleviamoci a un livello appena sopra del Burkina Faso e do un abbraccio a tutti gli amici burkinabè. Vi prego, la polemica... sulla presenza di Elton John a Sanremo risparmiatecela. Eppure non è iniziato ancora il festival, ma c'è la polemica perché oggi Elton John canterà e forse si presenterà col marito, forse, chi lo sa, non lo sappiamo. Elton John agita il festival, Corriere della Sera. Sentite, viene intervistata per esempio sul giornale Costanza Miriano, che è uno dei fautori, organizzatori del Family Day, e Camillo Langone, chiede questa domanda: ma come, Costanza, non vedrai stasera il festival della propaganda omosessualista? Ecco. E vabbè, insomma, Sanremo. Ed Elton John. C'è molto di esteri, reportage straordinari di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera e Domenico Quirico sulla Stampa, che non leggo e mi si strappa il cuore, perché sapete la mia, il mio amore per Domenico Quirico e ciò che lui scrive, e che trovate però sulla Stampa, ma purtroppo non ho tempo, ho tempo solo per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccola qui, una pagina intera. Ecco il kit di sopravvivenza per singola San Valentino. No, anche questo è un po' come Sanremo. Torna. Ma chi se ne frega?